e denari. È quello che vale per gli amici che sono in viaggio e che hanno ascoltato le nostre strade in diretta, oltre che tutti i suggerimenti utili del professor Fussi sulla manutenzione della nostra voce, e quindi il consiglio di guidare informati, tenere sotto controllo naturalmente le nostre capacità vocali. Tutti questi suggerimenti valgono anche per chi vuole progettare il proprio risparmio in modo attento, e quindi, come ogni giovedì, partiamo con Investire Informati. Investire informati. È il nostro appuntamento fisso del giovedì, con il quale proviamo a decifrare le notizie finanziarie e verifichiamo fino a che punto ci riguardino, quanto impattano nella nostra quotidianità e soprattutto nelle scelte di risparmio. Già ieri abbiamo toccato un tema piuttosto complesso, quello delle dinamiche del mercato valutario, di cui, come ricordava anche prima Nicoletta, si occupa oggi il Sole 24 Ore con il giornale della famiglia. Oggi allarghiamo necessariamente il tiro ad altri argomenti per poi arrivare anche agli strumenti per risparmiare. Vi ricordo come funziona questo nostro progetto, che ormai va avanti da dicembre. Ogni settimana una società, un'organizzazione si alternano ai nostri microfoni per aiutarci a capire le dinamiche dei mercati finanziari, ci aiutano a capire come ponderare le nostre scelte per quanto possibile, senza dimenticare che ogni scelta di investimento dobbiamo farla non perdendo di vista gli obiettivi di vita che ci dobbiamo dare, condividendoli con un consulente di fiducia, senza pensare solo ai risultati di breve termine dell'investimento. 800 24 00 24, quali sono i temi di mercato che vi fanno porre in questo momento delle domande e a che punto siete della manutenzione delle vostre strategie? Ben ritrovato Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR. Buongiorno. Buongiorno. Ah, anche la responsabilità dello sviluppo e marketing di questa società canta anche, così tanto per essere completi con il suo curriculum. Ahimè no. Però ha una bella voce. Sì. Devo dire di sì, infatti, tra l'altro poi i nostri ospiti, devo dire quasi tutti, e uniscono sempre forma e sostanza in maniera perfetta. E con questo benvenuto ricordo agli ascoltatori che, oltre a chiamarci al numero verde, ci possono anche scrivere al 349-238-6666, e ricordo anche che, visto che abbiamo notato che è una modalità che mostrate di apprezzare, vorremmo che foste voi protagonisti dei nostri Investire Informati, quindi fate attenzione a questa prima parte del programma, perché poi a metà della seconda arriverà il domandone per aprire di nuovo la nostra libreria. Se risponderete correttamente, chiaramente vi arriva un libro della nostra biblioteca. Allora, dottor Binismaghi, siamo di nuovo qua con la piccola Grecia che continua un pochino ad agitare il clima finanziario. Per domani è stata fissata questa riunione dell'Eurogruppo straordinaria alle 15 di domani pomeriggio, perché la Grecia si è decisa a chiedere questa famosa estensione del programma di aiuti appunto finanziari, che è già in corso da tempo. Sono tutti abbastanza concordi nel sostenere che un accordo alla fine si troverà e che non le verrà consentito alla Grecia di uscire dall'unione monetaria, ovviamente, anche se poi chiaramente le trattative in certi momenti sono un po' esasperati, la borsa ne risente, e abbiamo notato che poi in realtà alla fine a pagare quasi sempre la piccola borsa greca. Cosa ne pensa della situazione sulla base delle informazioni che abbiamo fino a questo momento? Beh, lei ha accennato al discorso piccola Grecia, ma problemi non tanto piccoli, no? Non a caso ieri gli Stati Uniti sono intervenuti, e quindi questo fa capire come il problema è molto più ampio e c'è anche tanta politica internazionale che ruota intorno a questa situazione della Grecia. Sappiamo bene che i russi si sono resi disponibili in caso no, di eventuale necessità finanziarie a dare un aiuto, ecco quindi che gli Stati Uniti hanno dato una risposta, quindi vediamo che sullo scacchiere il problema non è un piccolo problema, ma è un problema rilevante. Certo. Chiaramente per fare un accordo bisogna essere in due. Credo che dal lato dell'Europa sicuramente ci sia ampia disponibilità. Francamente si fa un po' fatica a capire dal lato greco quanto si voglia raggiungere effettivamente un accordo, quanto si voglia tirare la corda. Chiaramente questo governo ha fatto delle promesse elettorali, i cittadini greci hanno votato qualche settimana dietro, e quindi non è che ci sia stato molto tempo per dimenticare le promesse. Purtroppo è chiaro che il governo vorrebbe prendere molto tempo tempo per cercare di fare un po' dimenticare le promesse, ma le esigenze finanziarie invece non lo consentono per niente. Tanto che la Banca Centrale Europea ha ulteriormente, di nuovo proprio ieri, ampliato la disponibilità finanziaria nei confronti delle banche greche, passata da 60 miliardi a 65-68, per cui comunque questo sostegno non manca. Secondo me anche quello è un segnale che indica chiaramente che non si vuole proprio così lasciare intentato ogni tipo di percorso che si può prendere. Binismaghi, che cos'è l'Eurogruppo? Perché questo organismo è chiamato a prendere la decisione finale sull'estensione dei prestiti alla Grecia? E ricordiamo anche che cos'è la Troica, che spesso sentiamo citare nelle notizie relative proprio alla Grecia? L'Eurogruppo è quel centro di coordinamento europeo composto dai ministri dell'economia e delle finanze dei paesi che aderiscano all'euro e che generalmente si riunisce prima dell'Ecofin, che è anche quello, è invece quello che comprende tutti i ministri dell'economia e delle finanze dei paesi che aderiscano all'Unione Europea. Quindi l'Eurogruppo è il sottogruppo dei paesi che aderiscano alla moneta unica e che chiaramente ha necessità di politiche economiche molto più stringenti, perché essendoci la moneta unica, una banca centrale unica, è chiaro che il coordinamento deve essere estremamente forte. Invece il discorso della troica è buffo, che il termine troica è un termine russo, no? E quindi troica sta per tre elementi. Chi sono? Sono i tre elementi che in Europa finanziano e aiutano, voglio dire, i paesi che hanno problemi di insolvenza. È composto da rappresentanti della Commissione Europea, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. Dottor Binismaghi, intanto sta proseguendo sui mercati l'effetto del famoso quantitative easing, questo maxi piano di stimolo monetario che la Banca Centrale Europea ha varato il 22 gennaio. I tassi di mercato sono sempre più in basso, forse proprio in un'altra puntata con lei ci dicevamo speriamo di poter vedere e commentare buone notizie per il credito a imprese e famiglie derivanti da questo piano di stimolo. Ma le famiglie che risparmiano, secondo il vostro osservatorio, come stanno affrontando questa situazione di tassi di interesse a minimi mai visti? Come stanno modificando, se lo stanno facendo, le loro scelte? Beh, sicuramente non possono farlo da soli, hanno sempre più bisogno di consulenza e di assistenza. Quello che vediamo è questo, c'è sicuramente un grande disorientamento. Nessuno aveva mai vissuto negli ultimi 60-70 anni una situazione di questo genere, con i tassi di interesse sui bot vicini allo zero, e quindi quelli che sono gli strumenti, no, certo, più vicini alle famiglie dove mettere il risparmio, oggi giorno hanno dei rendimenti direi insoddisfacenti, e quindi le famiglie sono disorientate e bisogna aiutarle a costruire, no, un asset di investimento sicuramente diverso da quello del passato. Quello su cui bisogna stare attenti è non correre dietro a storie o a qualche pubblicità eccessiva. Ricordiamoci, no, parlavamo della Grecia, ha ristrutturato il debito qualche anno dietro, e sa quanti portafogli che avevano qualche titolo greco, no, ne ha sofferto. Ricordiamoci dell'Argentina. Bisogna stare attenti e andare veramente molto cauti e farsi aiutare dai consulenti. Anche sui mercati ogni tanto c'è qualche moda dalla quale bisogna rifuggire. Allora, c'è anche Fabio da Pescara pronto a intervenire, a questo punto dobbiamo trasferirlo nella seconda parte del programma. Adesso ci ascoltiamo il giornale radio, poi ritorniamo con Investire Informati. Cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore Denari, torniamo, come abbiamo anche anticipato nel nostro giornale radio, ad aprire subito la nostra pagina di denari, che per il giovedì, lo sapete, significa far suonare la campanella di Investire Informati. Investire Informati. E per farlo bene, chiaramente potete farci anche delle domande all'800240024. Vi ricordiamo la nostra rubrica che vi tiene compagnia ogni giovedì per spiegarvi i termini del risparmio, come funzionano i prodotti di investimento, cosa fare a seconda di come si muovono i mercati. Le tendenze sono molto interessanti nell'ultimo periodo, con questo grande condizionamento della situazione greca. È l'occasione buona anche oggi per condividere con noi tutti i vostri dubbi. Usate anche gli altri canali, se volete, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Lanciamo anche la sfida su Facebook, ce ne siamo dimenticate. Volentieri. Nicoletta, Facebook, dai. Seguiteci su, esatto, Facebook e su Twitter. E siamo a 4120, insomma, dai, se arriviamo a 4150 entro la fine della trasmissione, al numero 4150, altro libro. Siete d'accordo? Perfetto. Allora, con noi stamattina Simone Binismaghi, vice direttore generale di Arca SGR. Abbiamo commentato le novità che arrivano dalla Grecia e adesso direi di introdurre, lo abbiamo fatto anche in realtà introducendo prima l'argomento, tassi di interesse e scelte di investimento da parte delle famiglie italiane. Sentirei Fabio da Pescara perché ci dà un altro assist molto buono per proseguire il nostro ragionamento. Fabio, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, ragionando con un orizzonte temporale di 6-12 mesi, visto che i tassi di interesse rimarranno bassi per almeno un anno, conviene entrare ora sui BTP scadenza 3 o 5 anni per fare un trading sicuro e delle plusvalenze anche minime, visto che da marzo inizierà concretamente il quantitative easing, il tutto per investire in sicurezza e cercare di ottenere delle plusvalenze anche minime senza rivolgersi a fondi o gestori, facendo un po' da noi. Allora Fabio ha ascoltato un libro informati. Un libro stampato direi. Esatto, quindi se lo merita sulla fiducia. Investire informato, questo è Fabio. Allora, ha detto un po' di cose interessanti. Intanto si dice convinto Fabio, dottor Binismaghi, che almeno per 6-12 mesi i tassi rimarranno bassi, così come si trovano a livello attuale. Chissà che non rimangano su questi livelli ancora per un periodo più lungo, perché di certo qua in Europa non cominciamo ad aumentare come farà presto la Federal Reserve. Quindi primo tema, intanto lei è d'accordo su uno scenario di questo tipo? Allora, sono d'accordissimo, anche perché la BCE ha detto che il suo programma di acquisti va avanti fino alla seconda metà del 2016, quindi c'è un orizzonte di tempo sicuramente oltre i 12 mesi. Se sarà sufficiente, perché bisogna vedere l'inflazione, se recupererà qualche punto. Quali saranno le reazioni dell'inflazione, dell'economia e quant'altro. È chiaro che l'ascoltatore fa una domanda perché concilia trading e investimento. Generalmente non è proprio una cosa così conciliabile fare del trading o investire con degli orizzonti ben precisi, ben chiari. È chiaro che oggi col bot che rende 0, qualcosa si va a cercare qualcosa che rende 1, qualcosa e quindi ci si sposta sempre più in là sulla curva dei tassi. Però vuol dire prendersi anche certi rischi, ok? È vero che la banca centrale comprerà sul mercato, il mercato però lo ha anticipato, la banca centrale deve ancora iniziare e nel frattempo la struttura dei tassi è crollata in maniera estremamente significativa, no? E poi ci possono essere comunque dei movimenti sul mercato, quindi operazioni sicure quando c'è volatilità non esistono. Allora un discorso è fare un investimento, compro un titolo, me lo tengo fino alla scadenza, mi accontento del rendimento. Un discorso è quello che ha detto l'ascoltatore, voglio fare anche del trading, un discorso diverso. Fare del trading vuol dire sapere quando comprare, sapere quanto vendere, non è proprio una cosa così semplice. 800 24 00 24, il numero verde per tutte le altre vostre domande. Peraltro, a proposito di tassi di interesse, i BTP naturalmente sono gli strumenti di investimento, obbligazioni governative che riconoscono delle cedole anche ai sottoscrittori. Le introduco il tema cedola, dottor Binismaghi, perché nell'ultimo anno e mezzo, forse anche negli ultimi 2 anni, i prodotti a cedola sono stati il grande cavallo di battaglia di molte società di gestione del risparmio. È ancora così? Quali sono le asset class, come si dice in gergo finanziario, favorite, i settori che riescono a riconoscere delle cedole interessanti e anche voi continuate a puntare su soluzioni di investimento come questa? Ma è chiaro che è una proposta ancora molto valida, è una proposta semplice e chiara da spiegare anche ai risparmiatori che si avvicinano, no? Ai fondi comuni, è una delle prime ipotesi, ma non è l'unica oggigiorno. È chiaro che l'offerta si sta ampliando, bisogna uscire da quelle che erano le offerte più classiche e tradizionali, il mondo del debito e delle obbligazioni è molto vasto, si può andare a operare e investire su mercati internazionali, chiaramente ci vuole professionalità e conoscenza, non è più sufficiente. Io credo che con questi rendimenti bisogna anche inserire un po' di azioni, naturalmente stando molto attento, verificando il profilo di rischio del cliente, l'orizzonte temporale, un orizzonte di 6-12 mesi non si possono comprare le azioni, chiaro. Tra l'altro il fondo di investimento che combina azioni ed obbligazioni in un mix adeguato, che fondo è? Quello flessibile? Dottore? È un fondo flessibile, sono i fondi bilanciati. I bilanciati. Ci sono i fondi bilanciati che hanno storie lunghe con dei grandi grandi risultati molto interessanti. Comunque è un mix, voglio dire, classico dei fondi flessibili e dei fondi bilanciati. I fondi flessibili sono quelli di nuova generazione, sono sicuramente anch'essi molto interessanti in generale. C'è anche un'ulteriore nuova generazione che è quella dei multi asset, poi magari ne parleremo in un'altra puntata dedicando magari un approfondimento solo a questa nuova realtà. 800 24 00 24. Sentirei Cristina da Torino, se sei d'accordo. Andiamo nella tua città. Io sono molto d'accordo. Cristina, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Ecco. Complimenti, complimenti, quando posso vi sento sempre. Brava. Con questa voce dovevamo farla intervenire nella prima parte della trasmissione. Mi dà grande soddisfazione. Cristina, ci dica tutto. Allora, io ho un portafoglio molto variegato, sono abbastanza ben seguita, cerco di capire molto, molto meglio di quanto capissi un tempo. Ho comprato adesso un $10,000 di obbligazioni che si chiama Petrobrasil 2024, è una tripla B. Io sono già stata fregata dall'Argentina a suo tempo, però mi piace. Queste cose. Anche il nome, no? Come si chiama? Petrobras. Ecco, cioè, un po'. Fonte 25% rendimento, ovviamente lordo. L'ho pagata poco perché non l'ho pagata neanche 93 e con un cambio il dollaro da 1,13. Ora, naturalmente è una cosa che bisogna tenere d'occhio. Quanto bisogna tenerla d'occhio? Allora, intanto Cristina, visto che si è lanciata in maniera così consapevole nel mondo della gestione dei suoi risparmi, la tenga sempre d'occhio. Petrobras è una compagnia brasiliana che fa ricerca, estrazione, raffinazione, trasporto e vendita di petrolio, quindi intanto uno, settore delle materie prime. Obbligazione societaria, qua mettiamo insieme tantissime informazioni, in un'area, quella brasiliana, che è pure sempre sotto i riflettori, un po' perché qualche volta politicamente è ballerina. Un'obbligazione comprata ben al di sotto della pari, quindi per l'ascoltatrice molto conveniente, quindi rendimento abbastanza interessante. Quando il rendimento di una soluzione di investimento è alto, c'è sempre un rischio un po' più alto, altrettanto alto. Dottor Binismaghi, lei da dove vuole rosica, non rosica. Non è che abbia fatto proprio un investimento, come dire, non è proprio un conto di deposito, ecco, questa obbligazione. Poi parleremo anche delle obbligazioni societarie, ma questa nello specifico non voglio farla sbilanciare, ovviamente, però insomma, no, qualche però informazione. Questo è un classico esempio, no? Si è molto attratti dai rendimenti, da certe situazioni e quindi ci si investe. Intanto bisogna capire quanto uno ci mette. Se ci mette un componente percentuale del proprio portafoglio, no? Contenuta, va benissimo. Se invece si inizia a avere una parte prevalente, no, del proprio portafoglio, è tutto un altro discorso e quindi bisogna stare attenti, perché non l'unica informazione che non abbiamo avuto è quando scade questo titolo. Cristina. 2024. Quindi è abbastanza lungo, no? Quindi No, non c'è da aspettarselo, per carità, non mi illudo. Seconda cosa, mi permetto solo di dire che sicuramente investire in strumenti di debito delle società, i famosi corporate bond, è una strada interessante da perseguire. Per ottenere un extra rendimento, però bisogna costruire un portafoglio diversificato, puntare su un nome, su un titolo, è rischioso. Mettere tutte le uova in un paniere, no? Come sappiamo, è molto rischioso. Permetto di dire che questa società lavora in un settore in cui il prezzo del petrolio mi sembra che sia passato da $100 il barile a intorno ai $50 il barile. Quindi in sei mesi. Chiaramente può risalire, però insomma potrebbe anche rimanere su questi livelli, ecco. E quindi i risultati di queste aziende ne risentiranno. E non ci dimentichiamo di come ci sia stata anche proprio un po' la guerra, come dire, del petrolio, anche se non è stata tantissimo enfatizzata, però con l'OPEC che non vuole modificare i tetti produttivi, gli Stati Uniti che ormai sono lanciatissimi con lo shale gas, perché è un settore molto vivace, Cristina, da tenere sotto stretta osservazione. Rating tripla B di questa obbligazione, è importante oggi considerare il rating, dottor Binismaghi? Sì, perché certo. Qualche tempo fa, insomma, quando ci fu il famoso caso Lehman Brothers, massima affidabilità e invece la banca fallì, non ricordiamo neanche tutte le polemiche che ci furono attorno all'attribuzione dei giudizi da parte delle agenzie di rating, appunto. Oggi il rating è un elemento importante nel giudizio, no? Il problema è che il rating non rimane stabile, sia nella vita di un paese sia nella vita di un'azienda, si modifica a seconda che quali siano le condizioni economiche sottostanti. Abbiamo visto, no, il rating dei paesi sovrani continua a modificarsi e anche il rating delle aziende, a seconda di come è l'andamento, si modifica. Non esiste un rating che per 15 anni rimane invariato, è quasi difficile trovare, certo, situazioni di quel genere. Quindi è un elemento importante, va seguito, stiamo attenti. 800 24 00 24, è il momento del domandone. Dottor Binismaghi, la vuole fare lei la domandona? Se la ricorda, abbiamo fatto una bella spiegazione didattica all'inizio della trasmissione. Sì, la domanda era cos'è il termine troica? Esatto, da chi è composta, no? Insomma, da chi è composta questa termine, troica? Un termine russo, ha detto. Sì, esattamente. Quindi, fatemi fare la donna di cuore, no? Voglio dare l'aiutino, spero di non suggerire male, per questo appunto tutto. Allora, quindi da chi è composta la troica? Per il libro di Cuore Denari, 800 24 00 24, se volete rispondere al domandone, ma naturalmente lo spazio è aperto anche per le altre domande. Volevo ritornare ancora, soffermarmi sul caso dell'ascoltatrice di Torino, perché forse vale la pena fare anche un po' di monitoraggio sul tema delle obbligazioni societarie. Dottor Binismaghi, noi siamo abituati magari a comprarne, a sottoscriverne, non si dice comprare un investimento, si sottoscrive. In banca, perché le banche appunto ne erogano, sono anche delle soluzioni di investimento di taglio modesto. Molte società invece emettono delle obbligazioni, mi viene in mente Fiat, con importi molto alti che non sono invece a disposizione del pubblico retail, no? Come ci dobbiamo orientare in questo mondo? Ma è un mondo naturalmente dove ci saranno sempre più emissioni, perché chiaramente con questa struttura dei tassi molte aziende sono interessate ad emettere per avere accesso a finanziamenti a condizioni estremamente interessanti. Certo. No? E ci sarà uno sviluppo, perché ci saranno anche aziende medio-piccole che sono nell'economia reale che si avvicineranno ad emettere questi strumenti, perché è proprio un'esigenza della struttura finanziaria in Italia che deve modificare. Le aziende dipendono troppo dal credito delle banche e quindi ci saranno anche altre aziende medio piccole che emetteranno strumenti di debito con dei tassi di interesse interessanti. La strada migliore è comprare dei veicoli che hanno un portafoglio diversificato, come si dice sempre. Inseguire, no, un'emissione perché si conosce l'emittente, poi bisogna capire anche il tipo di conoscenza, no? Perché spesso si conosce perché si è letto qualcosa sui giornali, ma le cose possono mutare. Mm-hmm. Questa è la situazione, cioè quando compriamo degli strumenti di rischio ci vuole qualcuno che faccia un monitoraggio costante di questo rischio sottostante, perché questa è la differenza, non è come comprare dei certo. bot. Ecco perché quindi bisogna comprare dei veicoli che abbiano un portafoglio diversificato, ma sicuramente è un mondo molto interessante dove avvicinarsi. E infatti e poi tra l'altro non è che leggiamo neanche poi così spesso di società insolventi dal punto di vista del mercato obbligazionario corporate, no? Perlomeno adesso, a meno che non mi sia sfuggito qualche caso eclatante. Recentemente no, però voglio dire, questo non vuol dire che non possa succedere. Certo. Perché chiaramente. Quindi occhio. Esatto, questa è la parola. Perché quello che è successo nel passato non è certezza di quello che potrà succedere nel futuro, un'altra, oltre alla diversificazione. Vedi, oggi ti ho dato un'altra regola aurea. Ah, ma io ho un libricino così, ormai un quadernetto ciccio. È vero che non abbiamo avuto, no, qualche cosa recentemente, ma qualche anno dietro qualche brutta esperienza l'abbiamo avuta. Parmalat, Cirio, esatto, infatti. Allora, quindi memory di queste vicende, quando investiamo in obbligazioni societarie, a meno che veramente non abbiamo totale certezza per quello che si possa avere sui mercati di fare un buon investimento, teniamo anche a mente quello che appunto è successo nel passato. Allora, intanto in molti ci stanno scrivendo dei messaggi per rispondere alla troica, però noi per assegnare il libro vogliamo le telefonate, per cui componete l'800 24 00 24, è il modo più semplice appunto per avere accesso alla nostra libreria. Roberto dalla provincia di Chieti. Sì, pronto? Sì. Buongiorno. Io volevo delle notizie più dettagliate sugli ETF, ne sento parlare molto bene, specialmente quelli di ultima generazione, mi sembra. Ma che differenza c'è tra un ETF e un fondo comune? Guardi, sa che cosa facciamo, Roberto? Sì, ecco qua. Questo è un tema a cui veramente va dedicata un'intera puntata, a rispondere in un minuto è mortificante per questo settore, che è molto vasto. Per lo strumento ci sono società specializzate, possiamo velocemente fare un piccolo biglietto da visita. Dottor Binismaghi, è comunque un mondo che ha dato del filo da torcere ai fondi di investimento da quando sono stati lanciati. Io mi ricordo che sugli ETF è stata forse una delle prime puntate nel 2004 di Salva Danaio che feci, quando è nato proprio in quel periodo il primo italiano. Cioè, l'ETF è un fondo che replica esattamente l'indice sottostante, Il fondo comune invece... Non c'è un gestore che dice io faccio un fondo di investimento italiano e ci metto dentro la società. L'ETF replica identicamente il FTSE MIB. Esatto, il FTSE MIB. Invece un fondo comune, ad esempio azionario italiano, è uno che è gestito attivamente, dove vengano fatte delle scelte attive, no? Generalmente si selezionano le società che si ritengano più interessanti, che hanno migliori prospettive di crescita, e non si mettono società che hanno basse prospettive di crescita. E Roberto, quindi nel tempo dovrebbe dare risultati migliori, Roberto, se il gestore è bravo. Se il gestore è bravo, insomma, anche è un'altra bella partita. Chiaro. Diceva l'ascoltatore, quelli di ultima generazione. Sono quelli oggi investono sui mercati valutari, sulle commodities, sui derivati, ce strategie contrarie, per cui faremo una puntata appositamente su questo mondo, Roberto. E inviteremo promesso. Roberto. Certo, lo richiamiamo, così almeno rifà il domandone suo. Allora, siamo pronti per rispondere al nostro quizzettone. Abbiamo chiesto che cos'era la Troica. E andiamo a Prato. Ci aspetta Bruno. Buongiorno e benvenuto, Bruno. Buongiorno a voi. E dunque, la risposta è Fondo Monetario Internazionale, e Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Eccolo là, Bruno. Ha risposto correttamente ed è stato il primo a telefonare, naturalmente, per darci la sua risposta. Vedo che però in tanti si erano candidati, sono stati in tanti attenti. Dottor Binismaghi, avevamo in sospeso il tema dei mercati emergenti. La prossima volta le faccio fare una bella analisi solo di quel mondo là. Benissimo. Per capire, insomma, che cosa c'è adesso in fermento in giro per il nostro pianeta, girando il nostro globo, il nostro mappamondo. Allora, che dire, alla prossima. Ringraziamo. Alla prossima con Investire Informati. Grazie. Grazie mille a voi. A Simone Binismaghi. Anche Paolo Corleone in regia, la parte tecnica, Esotta Scena, Marco Lombardo, e noi torniamo domani. Molto bene, buona giornata.